troppo buono. Buongiorno. Tutto a posto? Tutto a posto. Qua funziona, quindi possiamo iniziare tranquillamente. Preghiamo un momento assieme. Signore, ti vogliamo ringraziare per la tua parola e le nostre aspettative sono che questa parola abbia un impatto nella nostra vita, che cambi il nostro modo di pensare, che cambi il nostro modo di agire e che ci renda più simili a te. Signore, questo va oltre le nostre capacità, va oltre le nostre orecchie. Questa è l'opera dello Spirito Santo e questo noi invochiamo in mezzo a noi per la tua gloria, Gesù. Amen. Amen. Che bella luce che c'è, hai visto? Proprio hanno fatto l'illuminazione a giorno. Allora, questa mattina ho pensato assieme di fare una camminata immaginaria o virtuale, così nei luoghi dove Gesù ha camminato, dove Gesù ha passeggiato, e in modo particolare in alcuni campi, in alcune campagne dove lui è stato. E questi sono dei posti che hanno segnato delle svolte, sono dei posti che hanno segnato dei cambiamenti, sono dei posti che hanno dato un significato diverso alle persone che li hanno attraversati. Il primo campo che vogliamo prendere in considerazione è chiamato il campo del vasaio. Possiamo leggere di questo episodio in Matteo 27 al capitolo 3. È scritto: allora Giuda, che era uno dei discepoli, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani dicendo: ho peccato consegnandovi del sangue innocente. Ma essi dissero: che ci importa, pensaci tu. Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue. E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio, perché servisse per la sepoltura degli stranieri. E proprio in quel campo Giuda si era andato a impiccare alcuni o a buttare da una parte dove si è squarciato. E questo è il campo che delimita quella situazione nella quale noi seguiamo Gesù. Però i nostri obiettivi sono diversi da quelli che Gesù ha. Sappiamo che Giuda era uno dei dodici, era il tesoriere, teneva la cassa e con questa cassa faceva la cresta sulla cassa, anche per i suoi interessi. E lui seguiva Gesù ed era stato scelto da Gesù, ma lo seguiva per soddisfare i suoi interessi, lo seguiva perché gli conveniva in un certo senso. Il principio fondamentale che delimita questo campo è: quando noi pensiamo, ma a seguire Gesù io ci guadagno qualcosa, mi conviene seguire Gesù, ottengo quello che voglio seguendo Gesù. E noi abbiamo delle argomentazioni anche per sostenere questi desideri, sostenere questi nostri pensieri, perché noi pensiamo Gesù è buono e quindi mi benedirà. Poi la Bibbia dice: chiedete e vi sarà dato, quindi io sto proprio a posto. È come se ho giocato una schedina vincente con Gesù. E in fondo non c'è niente di male, perché la Bibbia veramente insegna a pregare, insegna a chiedere, insegna a confidare in Dio. Però insegna anche che la benedizione è frutto dell'obbedienza. E non è tanto frutto di vantare dei diritti. Gesù nascondeva le sue intenzioni e pensava di poter usare Gesù, pensava che Gesù potesse in qualche modo servire lui e servirgli per soddisfare i suoi bisogni. E quando si è reso conto che Gesù sarebbe morto, che non avrebbe portato a termine quei suoi pensieri e quei suoi progetti, ha fatto l'ultimo affare con Gesù ed è stato quello di tradirlo. E abbiamo letto che è andato dai sacerdoti e gli ha detto: ok, io vi consegno Gesù, quanto volete, quanto mi date? Se noi pensiamo di seguire Gesù, o se noi stiamo seguendo Gesù perché ci serve, perché pensiamo che ci conviene, perché pensiamo che ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi, perché pensiamo come di avere un'assicurazione sulla vita a copertura massima, noi faremo la stessa fine di Giuda. La fine che Giuda ha fatto è stata quella di aver sprecato la sua vita, sprecato l'opportunità che Dio gli aveva dato e ha sprecato anche l'opportunità di avere la vita eterna. Ed non è una bella fine, non è una bella fine. Quindi dobbiamo guardare dentro di noi e dobbiamo capire perché stiamo seguendo Gesù e in che tipo di campo stiamo camminando. La Bibbia dice che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. E se noi pensiamo di poter camminare costantemente nel campo del vassoio, laddove sono i nostri interessi in primo piano, perché da cosa lo conosciamo? Lo possiamo riconoscere ascoltando le nostre preghiere. Questo per me è molto significativo. Quando io ascolto le mie preghiere, mi rendo conto di quello che prego e dei motivi che mi portano a pregare in quel modo. Io mi rendo conto anche perché sto parlando con Gesù, perché sto alimentando questa relazione con Lui. Se le mie preghiere sono: Signor Gesù, benedici mia moglie, benedici il mio lavoro, benedici i miei figli. Ti prego che oggi vada tutto bene e ti chiedo anche che possa andare meglio di ieri. Amen. È una preghiera un po' per interesse. È una preghiera un po' che lascia il tempo che trova. Voi provate a immaginare che qualcuno venga da voi o i vostri figli vengano da voi e vi fanno una richiesta del genere: papà, mi devi dare questo e questo, grazie. Forse glielo puoi dare anche, però non credo che arrivano al tuo cuore in questo modo e non credo che neanche le nostre preghiere arrivino al cuore di Dio se hanno questo fine, se hanno questa impalcatura che le sostiene, un'impalcatura di interesse e di solo tornaconto. Ho immaginato delle scarpe con cui camminare nel campo del vasaio e per lui ho scelto delle Cesare Paciotti. Sono delle scarpe molto esclusive, molto belle, che costano un sacco di soldi. Queste scarpe che vedete costano intorno agli 800 euro. Per lei invece ho scelto delle Praga stringate, che anche queste sono molto carine, molto belle e ci fanno fare la nostra bella figura. Ma sempre in quel campo camminiamo, sempre in quel tipo di area siamo. E mentre Giuda stava tradendo Gesù, Gesù con i discepoli era in un altro campo, era nel campo del Getsemani. E anche il campo del Getsemani ha qualcosa da insegnarci. Il campo del Getsemani ha un po' a che vedere quando la nostra relazione con Gesù, il nostro appartenere a Lui, dipende dalle circostanze, dipende da quello che viviamo attorno. In Matteo 26, al versetto 36 è scritto: allora Gesù andò con loro, con gli altri 11 discepoli, in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui finché io sia andato in là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E noi sappiamo che la veglia di questi discepoli e anche degli altri si è tramutata in un sonno profondo, proprio si sono lasciati andare, si sono addormentati. E quando si sono svegliati, che hanno visto che la situazione era precipitata, che c'era una folla ostile con bastoni, con spade, se ne sono scappati tutti. Al versetto 56 è scritto: allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Le circostanze non erano più quelle delle feste, dei miracoli, delle folle festanti, della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Era cambiato lo scenario. Gesù era sempre lì, ma era una situazione di angoscia. E la folla che circondava i discepoli era una folla ostile, una folla con i bastoni e con spade. E non era più tanto piacevole seguire Gesù, le circostanze erano cambiate. Che cosa hanno fatto i discepoli? Se ne sono andati via tutti. E io ho scelto anche delle scarpe che ci aiutano a capire gli atteggiamenti, a camminare in questo campo del Getsemani. E ho scelto un paio di pantofole Valle Verde. E noi quando siamo in questa situazione che dipendiamo dalle circostanze, siamo quei credenti comodi, con le pantofole ai piedi, seduti sulla poltrona o seduti dove siete voi, a gustarci quello che succede. E adesso, siccome che invece di un pastore ne abbiamo due, ci possiamo rilassare ancora di più. Oppure ho scelto un altro paio di scarpe, in alternativa alle pantofole delle Mizuno Wave Ultima 6. E queste sono le scarpe per quando dobbiamo scappare via, per quando ce ne dobbiamo, che ci vengono magari, che ci sentiamo stretti da un appello, o che sentiamo che il Signore sta parlando a noi, o che sentiamo che non è esattamente in pantofole che dovremmo essere, ma dovremmo avere un altro tipo di scarpe ai piedi, e allora ci cambiamo le scarpe, ci mettiamo le Mizuno e iniziamo a correre. La promessa che i discepoli avevano fatto poco tempo prima, proprio durante la cena, Gesù aveva detto: vedete che le cose si metteranno male, e tutti i discepoli avevano detto: Signore, noi non ti abbandoneremo mai. Se ne sono andati tutti quanti, e non stavano mentendo quando hanno detto: Signore, non ti lasceremo mai, così come noi non mentiamo quando lodiamo e adoriamo il Signore, e quando preghiamo, e quando ci diamo a Lui. Ma se sono le circostanze a guidare la nostra vita, allora i nostri orientamenti sono mutabili. Gesù sembrava avesse perso il controllo in quel campo del Getsemani, e i discepoli se ne sono andati. Quando noi ci lasciamo condizionare dalle circostanze, o quali sono i pensieri, i sentimenti dentro di noi che mettono alla luce, perché chiaramente non lo facciamo in maniera cosciente. Non è che noi veramente vogliamo abbandonare Gesù o lo vogliamo tradire, ma ci troviamo a farlo. Ci troviamo a farlo perché siamo travolti da quello che stiamo vivendo. E quando le circostanze prendono il sopravvento, quando noi siamo in pantofole o con le scarpe da ginnastica e i piedi per correre, e quando noi iniziamo a pensare o a pregare: Signore, io sono troppo deluso. Signore, ti vengo a dire che non ce la faccio più. Proprio ho bisogno di riflettere. Ho bisogno di prendere un tempo e ho bisogno di stare un po' tranquillo e sereno. Devo capire che cosa vuoi da me. Questo significa semplicemente che noi inizieremo a correre, o ci accomoderemo meglio nella poltrona e lasceremo guidare le nostre decisioni, i nostri impegni nei confronti del Signore, nei confronti della sua Chiesa, dai nostri sentimenti. E i sentimenti non sono dei buoni consiglieri, non sono dei buoni consiglieri. Quali sono stati i sentimenti di Gesù in quella notte così difficile? Quali erano i sentimenti che Gesù provava nel Getsemani? Mentre i discepoli avevano dei sentimenti di relax e di timore e di voglia di scappare via, quali erano i sentimenti che Gesù aveva? Li leggiamo in Filippesi, al capitolo 2, al versetto 5. Sono descritti in maniera scientifica. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. E trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. L'ubbidienza di Gesù, l'impegno di Gesù, la determinazione di Gesù non dipendeva dalle circostanze, non dipendeva dalle opportunità che aveva, ma dipendeva dalla volontà di rimanere fedele alla missione e alla chiamata che Dio gli aveva dato. Lui aveva ricevuto un compito, lui aveva ricevuto un mandato da parte di Dio, che era quello di andare sulla croce e di morire per i peccati di tutti, per permettere all'uomo di fare di nuovo pace con Dio. E le sue decisioni, anche in quella circostanza, di quella notte, lì nel Getsemani, sono dipese dalla sua volontà di rimanere fedele, di rimanere fermo, di rimanere rispettoso nei confronti degli impegni che aveva preso. E sapete, questo ha trasferito Gesù in un altro campo, proprio perché lui è rimasto fedele. Da quel campo lì del Getsemani lo hanno portato nel campo del teschio. Mentre uscivano in Matteo 27 al capitolo 32, mentre uscivano trovarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù, e giunti al luogo, detto il Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere dell'aceto. Anche quello era un altro campo, e questo è un campo molto scomodo, molto, dove non è bello stare, non è stato bello neanche per Gesù essere lì. Ritorniamo un attimo nel contesto di quel campo in quel momento. Erano le 9 di mattina più o meno, e avevano fatto un processo molto sommario a Gesù. I giudici che erano chiamati a giudicarlo rimbalzavano la responsabilità di prendere una decisione nei suoi confronti. Alla fine si sono decisi. Il verdetto è stato quello di morte, e morte per la crocifissione. E hanno preso Gesù, gli hanno messo la croce addosso, lo hanno portato lì, lo hanno disteso su, prima l'hanno spogliato nudo, l'hanno disteso sulla croce e lo hanno inchiodato lì su quella croce. E poi lo hanno alzato in piedi. Non era una bella scena da vedere, non era un bel posto in cui essere. E Gesù era lì, sulla croce, cosciente, perché gli volevano dare qualcosa per stordirlo, ma lui non l'ha voluto, è voluto essere cosciente fino all'ultimo. Ed era lì, inchiodato sulla croce, e nudo, e preso in giro da tutti quelli che passavano. Perché? Perché? E io ve lo voglio leggere perché. Perché, e questo è il mio perché, abbiamo bisogno di ricordarlo e abbiamo bisogno di rivisitare questo episodio, capendo fino in fondo quanto è importante e determinante per noi. Isaia 53. Potete seguirlo con me sullo schermo. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato. E noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che gli portava. Erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito e percosso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma egli nella sua morte è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenza e non c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini e gli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato condannato tra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e interceduto per i colpevoli. Lì, nel campo del teschio, trovano perdono tutti i nostri peccati, trovano guarigione tutte le nostre malattie. Lì Gesù ha gridato: tutto è compiuto. Verso mezzogiorno c'è stata un'eclissi di sole e si è fatto buio, e fino alle 3 di pomeriggio, e Gesù muore lì sulla croce. E quello che succede è che c'è un terremoto e Gerusalemme viene scossa, e tutte le persone che sono lì presenti vengono prese da una consapevolezza che fino a quel momento le era stata sconosciuta. Hanno iniziato a dire: questo veramente era il Figlio di Dio. Questo veramente era il Figlio di Dio. E lì nel campo dei Getsemani c'è un grande sentimento di disagio. Nessuno voleva essere lì. Quello che era uno spettacolo fino a quel momento è diventato qualcosa di cui ognuno si vergognava e tutti quanti sono scappati via. Ma c'era qualcuno che non poteva scappare. Avrebbe voluto scappare, ma non poteva scappare. Ma c'era qualcuno che in quel campo, in quel momento, ha fatto una decisione. Ed è stata la decisione giusta. E questo è il ladrone che era a fianco a Gesù. Come Gesù era stato condannato, come Gesù era inchiodato alla croce e come Gesù stava morendo. E come tutti gli altri se ne voleva andare, se ne voleva scappare, non voleva essere lì, ma i chiodi gli impedivano di andarsene. E lui ha guardato a tutto quello che stava succedendo, ha sentito le parole di Gesù che ha detto: tutto è compiuto. Allora ha fatto qualcosa di incredibile. Ha detto a Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Luca capitolo 23, 42. Gesù, ricordati di me. E Gesù gli disse, questo è ancora più sorprendente, cioè tu immagina che stai sulla croce, inchiodato, se ti viene in mente di dire a qualcuno: ricordati di me. E immagina se quello che sta a fianco a te, che è inchiodato come te, ti risponde: io ti dico che in verità oggi tu sarai con me in paradiso. Non è qualcosa di incredibile? Non è qualcosa di soprannaturale? È scritto nella nostra Bibbia ed è lì per te e per me. Perché quando siamo nel campo del teschio, dove riconosciamo i nostri peccati, dove vediamo che non siamo a posto, dove vediamo che non siamo quelli che dovremmo essere, noi possiamo fare due cose: o fare come tutti gli altri, sentirci a disagio e scappare via, o possiamo fare come quel ladrone, fermarci e dire: Signore, ricordati di me. E Gesù lì ci risponde. E in questo campo non si cammina. In questo campo ci si inginocchia e ci si arrende. Questo è un campo dove ci si inginocchia e ci si arrende. E si dice: Signore, io riconosco il tuo sacrificio per me, ti chiedo perdono e ti chiedo di ricordarti di me. E Gesù dice: non ti preoccupare, io mi ricordo di te, anzi, io sono qui proprio per te. È sconvolgente. C'è un ultimo campo, e questo è il campo di Betania. I discepoli, dopo la morte di Gesù, si sono chiusi in casa. L'abbiamo ascoltato qualche tempo fa, e cercavano di incoraggiarsi l'un l'altro. Dice: ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, vedrai che, vabbè, 3 anni sono stato, però almeno. E mentre erano lì a cercare di, incoraggiarsi l'un l'altro, arrivano le donne. Quando arrivano le donne, è sempre buono. Baby, quando arrivano le donne, è sempre buono. E le donne arrivano lì con 2 notizie, una più sconvolgente dell'altra. Allora, la prima dicono: Gesù è risorto. E Gesù vi sta aspettando a Betania. Cioè, i discepoli avevano visto Gesù ed erano andati al sepolcro, cioè non era tutto ben chiaro, però sapevano che era morto. E le donne vanno lì e gli danno queste 2 notizie. E alla fine si convince, Gesù va da loro e li convince: sentite, venite, facciamo un appuntamento, parliamo un'altra epoca, che c'è ancora qualche altra cosa da dire. E in Matteo al capitolo 28, al versetto 18, è scritto: e Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Le donne vanno lì, danno queste 2 notizie sensazionali, i discepoli piano piano si convincono, fanno quel pezzo di strada da dove erano, dove Gesù gli aveva dato appuntamento. E vedete, questo è molto importante. Gesù era già apparso a loro e gli aveva parlato lì, però gli ha dato un appuntamento. Loro dovevano muoversi da un posto e andare in un altro posto per ascoltare quello che Gesù aveva da dire. Gesù ti chiama, Gesù mi chiama, ma tu ti devi muovere, io mi devo muovere. Non possiamo fare come fanno i miei figli e tu li chiami: Mimi, che c'è papà? Cioè dalla stanza, che c'è papà? Però non viene. Cioè tu la chiami Mimi e non viene, sta là, che c'è papà? Cioè ti ha sentito, però non più di tanto, non implica una decisione il fatto che ti abbia sentito. E il Signore dice a me: Stefano, di papà. No, ci dobbiamo muovere, dobbiamo andare laddove Gesù ci vuole parlare. E i discepoli arrivano lì. Gesù aveva di che rimproverarli, eh? Gesù aveva di che dire, aveva di che dolersi, ma niente di tutto questo. Gesù che fa? Li incoraggia. Gesù che fa? Gli dà un'altra opportunità. Gesù che fa? Gli affida qualcosa di ancora più importante, di ancora più prezioso. Gesù non ti rimprovererà mai. Gesù non ha il desiderio di incontrarti, di incontrarmi per dire se, però. Gesù ha il desiderio di incontrarmi per dire: Stefano, io ho qualcos'altro per te. E così vuole fare con ognuno di noi. Vuole affidarci qualcosa di più importante, qualcosa di più grande. E sapete, i discepoli in quel tragitto e durante quel periodo e in quel campo hanno cambiato il loro atteggiamento. Hanno capito che la loro relazione con Gesù non poteva dipendere più dalle circostanze, non poteva dipendere più dalle convenienze, non poteva dipendere più dai sentimenti, doveva dipendere dal loro impegno, doveva dipendere dalla loro decisione. Il campo giusto sul quale essere è proprio quello di Betania. È proprio lì dove il Signore vuole affidarci un mandato, vuole fare in modo che la nostra vita non abbia più una valenza bella, umana, terrena, ma abbia una valenza divina, laddove non serve più al mio regno, ma serve al suo regno. Quello è il campo giusto, dove ci si arrende a Gesù, dove si dice: ok, Signore, io non voglio fare la tua volontà, ma farò la tua volontà, faccio la tua volontà, decido di fare la tua volontà. E ogni podestà è stata data nelle mani di Gesù. Qui si potrebbe dire un sacco di cose, però ci sono le scarpe adatte per questo campo pure. Le ho trovate. E in questo campo si cammina con gli anfibi da guerra. Si cammina con gli anfibi da guerra. Si smettono le scarpe di Cesare Piaggiotti o di Prada, si smettono le pantofole, si smettono le scarpe da ginnastica, ci si alza dall'essere ai piedi della croce perché si è ricevuto il perdono e una nuova vita, e si calzano gli anfibi da guerra. Perché? Per rispondere a quella chiamata, per rispondere a quello che Gesù vuole fare. E questo è descritto in un modo che meglio non si può. In 1 Pietro, al capitolo 4, al versetto 1, è scritto: poiché dunque ha sofferto Cristo nella carne, anche voi armatevi, e da questo vengono gli anfibi da guerra, armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Io penso che non c'è tanto da aggiungere o da convincere o da parlare. C'è da capire che scarpe si ha i piedi. Volete guardarvi i vostri piedi un momento? Ah? Che scarpe vedete? Ci sono delle scarpe da festa? Delle scarpe da ballo, delle scarpe da cerimonia, delle scarpe che ci aiutano ad avere la nostra immagine e la nostra posizione sociale? O ci sono delle pantofole belle, comode? Io e noi me ne abbiamo comprato un paio uguali che sono la fine del mondo. Non vedo l'ora di arrivare a casa io per togliermi queste scarpe che tra l'altro mi fanno male. E mettermi quelle pantofole. O abbiamo delle scarpe da ginnastica. Delle scarpe da ginnastica. E corriamo senza lasciarci raggiungere dalle parole che il Signore ci rivolge. Senza lasciarci raggiungere dall'impegno che Gesù ci vuol dare. E ogni 6 mesi le cambiamo quelle scarpe da ginnastica per preservare la spina dorsale. O siamo scalzi, Siamo scalzi perché non siamo nella posizione giusta davanti a Dio e abbiamo bisogno di fare una decisione. Abbiamo bisogno di riconoscerlo qual è Signore Salvatore della nostra vita. Cosa abbiamo bisogno di chiedere perdono o di iniziare da capo? O abbiamo gli anfibi finalmente? Abbiamo le scarpe giuste? Sapete, c'è un film molto bello che a me piace assai e in una frase il protagonista dice: guardando le scarpe che una persona indossa puoi capire molto di quella persona. Guardando le scarpe che tu vedi ai tuoi piedi puoi capire molto di dove sei, di chi sei, di cosa stai facendo. E puoi capire se va bene così o se c'è qualcosa da cambiare. A questo serve la parola che Dio ci ha affidato questa mattina, a guardarci i nostri piedi e a decidere. Non ce li possiamo tagliare i piedi come a Pinocchio, ce li avremo sempre e saranno sempre lì a dirci chi siamo e dove siamo. Io vorrei che svaligiamo questa mattina il magazzino da guerra del Signore, per andare a prendere i nostri anfibi, per andare a prendere le nostre scarpe e iniziare a fare e a camminare il cammino e la strada che il Signore ha preparato per ognuno di noi. Vogliamo pregare un attimo assieme? Signore, io ti voglio ringraziare che tu ci hai dato dei piedi. Ti voglio ringraziare che tu hai le scarpe giuste per ognuno di noi. Ti prego, Signore Gesù, che questa parola possa trovare spazio nel mio cuore, nel nostro cuore, e portare il frutto, portare quelle decisioni per la quale tu l'hai mandata. Signore, io voglio benedirti e voglio benedire ognuno di noi nel tuo nome. Grazie Gesù. Amen. Amen.